I'm going to show you some objects, then you can tell me what they're called. Vi mostro degli oggetti e poi diremo come si chiamano. Vi mostro degli oggetti e poi diremo come si chiamano. The key. Questa è una chiave. Questa è una chiave. The glass. Questo è un bicchiere. Questo è un bicchiere. The watch. Questo è un orologio. Questo è un orologio. The glasses. Questi sono degli occhiali. Questi sono degli occhiali. The telephone. Questo è un telefono. Questo è un telefono. The comb. Questo è un pettine. Questo è un pettine. The scissors. Queste sono delle forbici. Queste sono delle forbici. The razor. Questo è un rasoio. Questo è un rasoio. The envelope. Questa è una busta. Questa è una busta. The pencil. Questa è una matita. Questa è una matita.